ad alta voce. Teresa Saponangelo legge Il paese di Cuccagna di Matilde Serao. Capitolo secondo. Il battesimo d'Agnesina Fragalà, bella figlia di papà. Agnesina Fragalà, bella figlia di papà, diceva il giovane padre, curvo sulla culla di ottone luccicante come oro, tenendo aperte le cortine di merletto tutte annodate da nastro color di rosa e vezzeggiando con le parole, con lo sguardo, col sorriso, la neonata rosea che dormiva placidamente. Agnesina, Agnesina, Agnesina, gli continuava a dire ridacchiando fra sé, tu mi pari assai bellina. Zitto, Cesare, farai svegliare la bimba, mormorò sottovoce la madre dalla toilette presso cui era seduta. Tanto si dovrà svegliare più tardi, rispose il padre, abbassando però la voce e socchiudendo le cortine. Non la dobbiamo mostrare ai nostri invitati? Sì, purché non si metta a strillare nel salone, ribatté la giovane madre con un sorriso fra la scherzosa paura e la beatitudine materna. Boh, esclamò il giovane padre, staccandosi dalla culla e venendo presso sua moglie. Gli invitati staranno attenti a mangiare le paste, i dolci, a sorbire le granite, a ingoiare gelati. Vedrai che pappatoria, Luisella mia. La famiglia Fragalà contava niente meno che 80 anni di prudenza commerciale e di crescente fortuna, avendo cominciato il nonno di Cesare con una misera botteguccia di pasticcere in via Purgatorio d'Arco, a quartiere Pendino. Bene, è vero che il nonno Fragalà era accusato di mescolare una quantità di ingredienti sporchi e pericolosi alle sue sfogliate: amido, gomma, zucchero rosso, grasso di vaccina, colla forte e financo crusca. Ma che importa? Nelle giornate di domenica e in tutte le altre feste comandate, le sfogliatelle si vendevano come il pane, e più del pane, dalle 9 alle 2 pomeridiane. Alle 2 nonno Fragalà chiudeva, perché non aveva più sfogliatelle da vendere, sebbene ne avesse preparate moltissime, e perché era un uomo timorato di Dio. Pian piano egli aveva aperto un'altra bottega a San Pietro a Maiella, mettendovi un suo figliuolo. Poi, più tardi, un'altra bottega a strada Costantinopoli, verso il Museo Borbonico, mettendo un altro figliuolo. E infine, alla sua morte, il suo primogenito aveva osato di affrontare la via di Toledo, ma nella sua parte più alta, aprendo una pasticceria a tre porte, cioè con tre botteghe all'angolo dello Spirito Santo. Una magnificenza. Uscendo dalla stanza, Luisella incontrò il marito. «E dov'è la nutrice?» ella chiese. «Nella stanza vicino alla cucina, con Donna Candida». «Andiamo a vedere», disse ella avviandosi, seguita dal marito, attraversando la parte posteriore della casa, stanze di sbarazzo, stanze delle serve e riuscendo nell'anticucina. La balia di Frattamaggiore, una magnifica e grassa donna dalle guance rosee, dagli occhi grandi ma sporgenti, dalla espressione di beata serenità, aveva messo il suo vestito di damasco azzurro, guarnito di una larga fascia di raso giallo e così ricco di pieghe sui fianchi che pareva ondeggiasse a ogni passo che ella faceva, largo, duro, come un edificio di stoffa. Accanto a lei, Donna Candida, la levatrice, aveva indossato un vestito di seta rossa, dei grandi battesimi, e portava sul petto, per spillo, una larga miniatura dove era ritratta la buona anima di Don Nicodemo, suo marito. Tanto lei che la nutrice, due personaggi importantissimi, aspettavano pazientemente scambiando qualche parola. «Prosit!» esclamò la levatrice, vedendo la bella puerpera. «Grazie, Donna Candida, siete venuta presto. Non vi seccherete di aspettare? Volete prendere qualche cosa?» «Nutrice, tu vuoi certo qualche cosa? Come piace a vostra eccellenza?» disse la nutrice, levando i dolci occhi color dell'olio un po' stupidi. Essendo andato di là Cesare Fragalà, un cameriere portò del marsala, biscotti, paste, confetti, canditi alla balia e alla levatrice. Inteneriti, marito e moglie, ritti in piedi, guardavano le due donne che mangiavano quietamente, continuamente, di tutto. e quando esse si fermavano un momento, Luisella Fragalà spingeva il vassoio di argento verso la balia. E la levatrice, che era donna compita, levando il primo bicchiere di Marsala, esclamò: «Alla salute di donna Agnesina, possa crescere bella e buona come la sua mamma!» «Alla salute di quella piccerella mia», disse la balia ridendo. E il marito e la moglie commossi si guardarono con le lacrime della contentezza negli occhi, ringraziando col capo. A un tratto la madre disse: «Nutrice, la bambina piange!» La nutrice si asciugò precipitosamente le labbra bagnate di vino, depose il candito che mangiava e scappò via con un grande fruscio di stoffe seriche, aprendosi il corpetto macchinalmente con quell'affettuoso e istintivo moto materno. Ma nel salone di ricevimento, tutto mobiliato di divani, poltrone, poltroncine e sedie in damasco color granato, la gente già cominciava ad arrivare. Ora sul divano d'onore non vi era più posto. Nel mezzo sedeva Luisella Fragalà. A destra vi era la comare marchesa che mostrava le sue scarpe di prunella nera e stringeva la sua borsa di velluto. A sinistra sedeva la signora Parascandolo, triste figura muta, vestita di un abito di Parigi e coperta di magnifiche gemme, ma curvante il capo sotto i ricordi sempre, irrimediabilmente. E come tutti si furono seduti, nel salone si fecero 2 minuti di perfetto silenzio. Tutti aspettavano ancora, sogguardando furtivamente la porta, fingendo di pensare ad altro. Delle signore nascondevano qualche lieve sbadiglio dietro il ventaglio. Le ragazze avevano quell'aria di sonnambule che le fa apparire distaccate da qualunque interesse umano. Gli uomini si torcevano i mustacchi e i ragazzi avevano quell'aspetto di ebetismo assoluto di cui Fofo Maier era la nota più acuta. Ma Cesare Fragalà era sparito. E dopo 3 minuti di quel silenzio comparvero i rinfreschi. E allora tutti si misero a discorrere, rumorosamente e fragorosamente, per avere un contegno disinvolto, fingendo di non badare ai rinfreschi. Ma ne arrivavano da tutte le parti, continuamente, diffondendo nel salone la letizia del desiderio che era per soddisfarsi. Fra tanta gioia i dialoghi si animavano. I cavalieri correvano di qua e di là tenendo un piattino, un bicchiere, una tazza, servendo le signore e anche servendosi, parlando da lontano, interpellandosi, richiamando i camerieri coi vassoi, facendo loro perdere un po' il capo in quella confusione. «Uno spumone alla signora Naddeo! Vi piacerebbe una gramolata di amarena? Prendete un bicchiere di poncia allo champagne, non vi è di meglio per digerire il resto. Chi vuol cambiare un gelato di fragola con un caffè bianco? Vi assicuro che non vi fa nulla, spumoni, gelati, granite, gramolate, tutt'acqua, signora mia. Vi sarebbe un latte miele fragola? L'ho io. Mamma, dammi la crema, dammi la crema!» Tutto contento, Cesare Fragalà correva da una parte all'altra, facendosi seguire dai camerieri. Ad ogni vassoio che arrivava, la prima a averne era la comare marchesa, la seconda la signora Parascandalo. Ma costei, appena assaggiato un cucchiaino di gelato, aveva subito posato il piattino, riabbassando gli occhi distratta, come se non vedesse e non udisse tutto quello che accadeva intorno a lei. Invece la comare marchesa, pian piano, senza affrettarsi, con la sua bocca rincagnata sulle gengive senza denti, sorbiva lentamente tutto, il gelato, la gramolata, la formetta, lo spumone, con un moto continuo delle mascelle, con un agitarsi del suo naso adunco che scendeva sul labbro superiore. Cesare Fragalà ogni tanto passava dalla lietezza del salone a quella della cucina, egualmente contento della contentezza altrui, sentendosi dilatare il cuore allo spettacolo di tutti coloro che mangiavano e bevevano, rispondendo familiarmente agli auguri dei servi, delle serve, parlando loro in dialetto. Ora, di là, come un senso di riposo gastronomico si diffondeva, la gente si quietava, prendeva un aspetto composto, sorrideva beatamente dopo quel primo sfogo della golosità. Le conversazioni, prima illanguidite, avevano preso un tono mite di gente sazia e tranquilla, piena di una squisita educazione. Le signore sorridevano a fior di labbro, delicatamente, e le ragazze agitavano i loro ventagliucci come sonnambule. Gli uomini intavolavano delle discussioni pacate, serie, sui loro affari, sulla minuta politica quotidiana, sul poco movimento commerciale napoletano, di cui tutti soffrivano, e si tenevano in piedi, in gruppi, facendo certi gesti larghi e crollando il capo con gravità. Luisella Fragalà cominciava ad annoiarsi assai. Il suo temperamento vivace la spingeva a levarsi su, ad andare in giro per il salone, discorrendo con le sue parenti ed amiche, magari andando di là a vedere che faceva Agnesina, a vedere che cosa accadeva in cucina e in stanza da pranzo, dove udiva una grande baraonda. Ma il suo posto d'onore era lì, su quel divano, il posto della padrona di casa, della madre di famiglia. Sarebbe stato un delitto di lesa borghesia abbandonarlo e continuava ad annoiarsi mortalmente, sorridendo di lontano alle sue amiche, mentre si soffiava col grande ventaglio di raso nero cosparso di stelline d'oro. Ad un tratto, non potendone più, chiamò suo marito e gli parlò sottovoce un momento. Egli annuì col capo e sparve di là a organizzare il corteo. Gli invitati, abituati al programma borghese di queste feste, capirono subito e si misero a guardare verso la porta ogni tanto, sapendo che cominciava un'altra parte dello spettacolo. Dalla grande porta il corteo comparve. La piccola Agnesina, col visetto tutto rosso nella sua cuffietta di merletto bianco dai nastri azzurri, con un corpettino di batista tutto ricami, le cui manicucce larghe e lunghe le coprivano le manine rosse, era distesa in un portabimbi di raso azzurro e merletti bianchi, appoggiando il capo a un cuscino di raso e batista. E il portabimbi stava sulle forti braccia di Gelsomina, la nutrice di Fratta Maggiore, che portava il suo carico con una devozione profonda, come il chierico porta il messale da un corno all'altro dell'altare, senza distogliere gli occhi dal volto di Agnesina che la fissava placidamente, con quegli occhietti chiari dei neonati, occhietti che sembrano di cristallo. Accanto a lei, in tutta la gravità del suo ufficio, vi era Donna Candida, la levatrice, che per assodare la continuità del suo patronato teneva la mano sul cuscino della bimba. Dietro il padre, Cesare Fragalà, e un po' più indietro di nuovo i camerieri, coi vassoi pieni di canditi, di confetti, di pastine secche, di dolci caramellati, e con altri vassoi pieni di bicchieri di Marsala, di Malaga, di Lunel, e dietro ancora, facendo, osando fare capolino dalla porta, qualche serva curiosa e intenerita che guardava con gli occhi sgranati. All'apparire del corteo, non inatteso, poiché tutti sapevano che la creaturina sarebbe stata mostrata agli invitati, parenti ed amici, al suo apparire dovunque scoppiò un applauso lungo, fragoroso, qua e là fatto più sordo dalle mani guantate di alcuni giovanotti eleganti, e un coro scoppiò femminile e maschile. Evviva donna Agnesina! Evviva Agnesina! Possa tu crescere santa! Quanto è bella, quanto è cara! Agnesina! Agnesina! Evviva il papà e la mamma di Agnesina! Un silenzio. E poi di nuovo un gran chiasso, poiché la bimba era portata in giro trionfalmente e le donne davano i leggeri strilli di materna emozione e se la sbaciucchiavano mentre essa già cominciava a piagnucolare. E avendo levato il capo, Luisella Fragalà a un tratto, addossata a uno stipite di porta, scorse una bizzarra figura a lei sconosciuta. Luisella guardò due o tre volte, presa da una curiosità, quella figura cercando di rammentarsi dove l'avesse vista qualche altra volta, ma fu invano, l'era nuova. Chi poteva essere? Forse qualche persona condotta da un parente, da un amico, così senza neanche chieder permesso, con quella beata familiarità che dal popolo napoletano sale alle classi più alte. Certo, era una persona sconosciuta. E mentre la bimba troppo baciata continuava a piagnucolare, mentre la nutrice, la levatrice e le altre signore cercavano di consolarla, dicendole delle paroline amorose sopra un tono di cantilena, mentre per il salone si diffondeva un'altra volta l'allegrezza del cibo, del vino, della leccornia, Luisella Fragalà, singolarmente interessata, obbedendo a una voce interna, non poteva staccare gli occhi da quella bizzarra figura immobile. Era un uomo fra i 35 e i 40 anni, col pallido volto emaciato, di chi ha fatto un lungo e disastroso viaggio. Una fitta barba nera, un po' riccia, incolta, scendeva dalle guance striate di un rosso malaticcio e nascondeva qualunque traccia di biancheria e di cravatta al collo di quell'uomo. La fronte aveva lo stesso pallore esangue e due rughe vi si disegnavano a ogni moto delle sopracciglia. I capelli erano castani, buttati indietro disordinatamente e lascianti scoperte le tempie dove erano un po' radi, dove, a guardar bene, a guardar minutamente, si vedeva, sotto la finezza della pelle, la rete delle vene azzurre un po' ingrossate. Il collo era scarno e a qualche movimento della testa vi si disegnavano i tendini come nelle zampe delle galline morte. Ed erano scarne le mani abbandonate, buttate giù lungo il corpo. L'uomo era vestito poveramente, assai poveramente, con un paio di calzoni sale e pepe, un po' corti, che lasciavano vedere le scarpe non bene spolverate, scarpe alla prussiana, legate da un nastro che si era fatto rossiccio, con un panciotto e una giacchetta, sì, proprio una giacchetta color marrone scuro. E tutto l'uomo aveva un aspetto nel medesimo tempo malaticcio e misterioso, miserabile e ignobile nella miseria. I suoi occhi scuri vagavano di qua e di là, senza fermarsi mai un minuto sullo stesso punto, avendo la stessa espressione di mistero e di ignobilità di tutta la sua persona. «Chi sarà questo straccione?» domandò a se stessa Luisella Fragalà, presa da un senso di collera e di paura. Tutti facevano baldoria nuovamente, intorno ai vassoi dei dolci sopraffini, che erano il fiorfiore della cucina e della bottega Fragalà a Toledo. «Ma chi sarà mai quel pezzente?» si domandò ancora Luisella Fragalà, sentendosi come offesa nel suo orgoglio di padrona di casa, nel suo amore della nettezza da quell'uomo malaticcio, misero e sudicio. Si alzò macchinalmente per sapere qualche cosa da qualcuno su quel bizzarro straccione che si era introdotto nella sua casa, lasciando la comare Marchesa, che aveva aperto di nuovo il suo fazzoletto bianco sulle ginocchia e sul fazzoletto aveva monticchiato ogni genere di dolci, mangiandone di tutti, lentamente e continuamente, lasciando la ricchissima e infelice signora Parascandolo, i cui occhi pieni di lacrime seguivano intentamente il portabimbi dove la piccola Agnesina continuava il suo giro per la sala. Luisella Fragalà raggiunse il piccolo corteo dove ora la piccola strillava acutamente mentre il giro finiva e istintivamente, quando la nutrice Gelsomina si stava per fermare innanzi a quello strano personaggio, come se anche a lui volesse far baciare la bimba, Luisella Fragalà si interpose vivamente, squadrando con ribrezzo lo sconosciuto che già si era avanzato per baciare e dicendo rudemente alla balia, mentre metteva la mano sul cuscino della piccola Agnesina per proteggerla: «Vattene, nutrice, la bambina piange troppo». La nutrice uscì subito seguita da Donna Candida, mentre la madre dalla porta le guardava che si allontanavano nelle altre stanze, quasi a proteggerle ancora contro un maleficio ignoto. «Cesare!» disse Luisella chiamando suo marito. «Che vuoi, bella mia?» rispose costui, finendo di legare uno spago tricolore intorno a un cartoccio, con la grazia del venditore di dolci. «Dimmi una cosa, due cose, gioia mia. Chi è quell'uomo là, vicino alla porta?» «Quello?» chiese Cesare, aguzzando gli occhi come se non ci vedesse bene. «È Giovannino Astuti, l'agente di cambio.» No, signore, Giovannino Astuti lo conosco. Dico quell'altro.» «Oh», fece lui con un lievissimo imbarazzo, «è una persona qualunque.» «Che persona?» disse ella duramente. «Un amico mio.» «Un amico? Quello straccione?» «Non si possono avere amici ricchi sempre», ribatté con una risatina che suonava falsa. «Capisco, ma non c'è ragione di far venire un pezzente, anche se ti amico, in mezzo a una riunione di galantuomini.» «Oh, Luisa, come sei nervosa, gioia mia. Un po' di carità.» «La carità è una cosa, la convenienza è un'altra», replicò ella nella sua ostinazione. «Non vedi com'è sporco?» «Oh, sporco», mormorò lui nella sua costante bonomia. «È filosofo, non bada ai vestiti.» «Infine, Cesare, io vorrei che se ne andasse.» «E come si fa?» chiese lui confuso, mortificato dall'insistenza della moglie. «Gli si dice.» «Ora gli do prima un bicchiere di vino, Luisella. Ancora un po' di pazienza e poi lo faccio andar via.» Difatti, Cesare Fragalà si avvicinò allo sconosciuto e gli offrì dei dolci, del vino, parlandogli sottovoce, guardandolo negli occhi. Costui accennò un sorriso, con le labbra di un violetto smorto, e cominciò a mangiar piano piano, con una piccola smorfia di difficoltà, come se non potesse bene deglutire. Prima di portare alla bocca il candito, la rosea pasta reale, il frutto giulebato che Cesare Fragalagli veniva man mano offrendo, invitandolo con gli occhi a gustarne, il misterioso personaggio guardava il dolce con una cera fra indecisa e diffidente. Infine si risolveva a mangiarlo, facendo sempre quell'atto nervoso, penso, del volto di chi ha la gola stretta. Ed era restato in piedi, con quell'aspetto imbarazzato della propria persona, che è la incurabile infelicità di certi individui. Spezzava un mandorlato scrocchiante, inghiottiva i grossi bocconi molli della pasta margherita, guardandosi vagamente intorno, come se non osasse abbassare gli occhi sulle sue gambe e sulle sue scarpe. Pure lentamente continuava a mangiare. Anzi, Cesare Fragalà aveva fatto portare un vassoio di dolci sopra una mensola, accanto allo strano personaggio, donde gli veniva porgendo continuamente i cioccolatini, i confetti di mandorle vanigliati, i quarti di mandarino, stillanti di sugo agrodolce. Anche aveva fatto posare sulla mensola un vassoio di bicchieri di vino. Ne aveva dati tre, uno dopo l'altro, al bizzarro personaggio che li aveva tracannati senza fiatare, levando il volto smunto, striato di rosso, levando l'ispida barba di convalescente uscito dall'ospedale. L'uomo seguitava a mangiare e a bere continuamente, taciturno, mentre Cesare Fragalà, con un sorriso stentato che mal celava una certa preoccupazione, guardava l'uomo negli occhi, come se volesse leggergli in fondo all'anima. Nel frattempo, la padrona di casa aveva dato ogni tanto delle occhiate oblique verso il pezzente che le aveva urtato tanto i nervi. Ma costui seguitava pianamente a mangiare e a bere, ritto in piedi, con quel moto lento delle mascelle, con la tensione dolorosa dei muscoli del collo che somigliava alla zampa gialla di una gallina morta. Però qualcosa di bizzarro avveniva intorno, di cui Luisella Fragalà si dovette dar conto man mano che il fenomeno si propagava nel salone. Mentre il pezzente devastava il vassoio dei dolci, facendosi intorno ai piedi un circolo di cartine bianche intagliate, di cartine metalliche colorate ed anche di ossi di prugna, nel salone egli aveva attirato l'attenzione di coloro che vi erano e che avevano finito di mangiare dolci e di sorbire gelati. Nella vaga ora di digestione di tutte quelle leccornie, con lo stomaco pieno e il pacchetto di dolci da portare a casa, tutti distratti, tutti disoccupati, girando gli occhi attorno, avevano scorto quello strano miserabile, a cui con tanta compiacenza Cesare Fragalà dava da mangiare e da bere. E man mano l'uno indicandolo all'altro, con un'occhiata, con una gomitata, con quella mimica significativa di occhi, di sopracciglia, di sorrisi che costituisce il più espressivo fra i linguaggi, si erano indicati quel divoratore muto che cominciava quando essi avevano finito, ma che pareva non dovesse finire se non quando avesse distrutto l'ultimo dolce e bevuto l'ultimo bicchiere di vino. Ma ad un tratto, da uomo a uomo, da donna a donna, una parola sommessa, sussurrata, corse con uno strano stridore, con un sibilo di sillabe più fischiate che pronunziate. Chi primo aveva pronunziato quella sibilante parola? Qual era la persona che, conoscendolo, l'aveva pianamente soffiata nelle sue avvolgenti e sinuose sillabe all'orecchio del suo vicino? Chi lo aveva rivelato il mistero dello sconosciuto? Chissà. Certo che in un minuto secondo, con la rapidità di una traccia di polvere pirica che svampa, tutti avevano saputo e ripetuto la mistica parola. Per tutto il salone cremisi, e che essa ritornava su se stessa riavvolgendosi negli archi, nei circoli delle sue lettere, formando come un magico cerchio, in cui entrò subito tutta l'assemblea, uomini, donne, fanciulli. E quando tutti ebbero saputo chi era quell'uomo, come una stupefazione li colse. I lumi delle lampade parve si fossero improvvisamente abbassati. Un gran pallore parve caduto sulla vivezza dei volti, dei mobili, delle stoffe. Un silenzio profondo si fece, dove ancora si trascinava fioca, flebile, la mistica parola. L'assistito. L'assistito. E come per un'attrazione forte e naturale, man mano intorno all'assistito, un cerchio di persone si venne formando, stringendosi sempre più. Un cerchio di facce lievemente ansiose, dove si leggeva il vivido lavorio della fantasia meridionale, la fuga di tutte quelle immaginazioni nel paese dei sogni e dei fantasmi. Alle persone meno timide, che per le prime si erano avvicinate, si venivano ad aggiungere le altre, più ritrose, ma infine vinte anch'esse, sognando anch'esse tutto il fantomatico corteo degli spiriti assistenti, il corteo degli spiriti buoni e degli spiriti cattivi, che ogni giorno, ogni notte, ogni ora del giorno e ogni ora della notte si agita, combatte, vince o è vinto intorno all'anima e intorno alla persona dell'assistito. Pure l'assistito taceva. Tanto che Don Gennaro Parascandolo, sentendo dietro di sé l'impazienza della sala, rischiò una domanda. «Vi è piaciuta la festa, Don Pasqualino?» Infine costui schiuse la bocca e dalle labbra sottili, violacee, tutte maculate dalla febbre, una voce bassa e fievole uscì. «Sì», disse, «è un bel battesimo. Anche il battesimo di Gesù Cristo nel Giordano era bello». Immediatamente vi fu un mormorio, un'agitazione nella sala. Tutti parlavano fra loro, sottovoce o ad alta voce, commentando la frase, cercandone subito la spiegazione, formando circoli, crocchi. Le donne discutendo fra loro, mentre il numero 33, il numero del Redentore, correva su tutte le bocche. Placidamente, come se prendesse la data di una cambiale, Don Gennaro Parascandalo aveva trascritta la frase nel suo taccuino e, celandosi dietro una portiera, senza lasciare la sua gravità burocratica e misantropica, Don Domenico Maier ne aveva preso nota. La vecchia marchesa, che era sorda, andava domandando rabbiosamente «Che ha detto? Che ha detto?» Finì per chiederlo a Luisella Fragalà, che immobile, con gli occhi imbambolati, sedeva presso la malinconica signora Parascandalo, e Luisella non seppe dire altro «Non so, comare marchesa, non ho inteso». Però Don Gennaro Parascandalo, non contento, insisteva «Vi sono piaciuti i dolci, Don Pasqualino? Ho visto che li mangiavate con piacere». «Sì», mormorò costui, «io mangio, ma non mastico». «Non avete denti?» «Non ho denti». E girò gli occhi intorno, in alto, vagamente, senza fissare mai nessuno, come se vedesse delle cose di là, e fece un cenno con la mano appoggiando tre dita sulla guancia. Vi fu lo stesso mormorio, la stessa agitazione, ma sorse anche un'incertezza. La frase era ambigua. E il cenno con le tre dita che significava? Anche Don Gennaro Parascandolo, mentre prendeva la sua notazione, si fermò pensando. E il mistero di quella seconda frase, il mistero di quel cenno, scatenava tutte quelle già frementi fantasie in un mondo sovrasensibile. Oh, la fede, ecco quello che ci voleva per intendere le parole dell'assistito. E ognuno, concentrando le potenze dell'anima, cercava di avere uno slancio sublime di fede per sapere la verità e per conoscere come si traducesse in numeri e per cambiarla nei danari del lotto. A notte tarda, quando la casa fu vuotata di gente, Cesare Fragalà, insieme con le serve sonnacchiose, andò smorzando i lumi, chiudendo tutte le porte, come faceva per prudenza ogni sera. Rientrato nella stanza nuziale, trovò Luisella semispogliata, seduta nella penombra. La culla di Agnesina era stata portata nella stanza della nutrice. Gli sposi erano soli. Pareva che la stanchezza li avesse ammutoliti. Pure, accostandosi alla sua giovane moglie, egli vide che ella piangeva, silenziosamente, a grosse lacrime che le si disfacevano sulle guance. «Che hai, Luisella? Che hai?» chiese, abbracciandola, tremante anche lui di emozione. «Niente», ella disse, piangendo ancora nel silenzio, nella penombra.